Padre Dolan, qualche ragazzo che vuole essere frustato? Rotto gli occhiali, brutto imbroglioncello fannullone, ti si legge negli occhi. Dolce, benigna, rettoriale, rampognante, la testa di Sir John Conmee spunta dalla cassa della pianola. Sir John Conmee. Un momento, padre Dolan, un momento. Sono sicuro che Steven è un bravo bambino. Zoe, esaminando la palma di Steven. Mano da donna. Steven, mormora, continua, mentisci. Tienmi per mano. Accarezza. Non ho mai saputo leggere la sua scrittura, eccetto la sua criminosa impronta digitale sul merluzzo. Zoe, che giorno sei nato? Steven, giovedì. Oggi. Zoe, chi nasce di giovedì farà strada nella vita. Segue le linee sulla mano. Linea del destino. Amici influenti. Florrie, accennando col dito. Fantasia. Zoe, monte della luna. Ti incontrerai con una. Si mette tutto a un tratto a scrutare da vicino. Non ti dirò le cose brutte o spiacevoli. Oppure le vuoi sapere? Bloom, le stacca le dita e porge la sua palma. Più male che bene. Qua, leggi la mia. Bella. Fa vedere. Rivolta la mano a Bloom. Me l'aspettavo. Dita annocchiute, buone per le donne. Zoe, scrutando la palma di Bloom. Graticola. Viaggi per mare e matrimonio per denaro. Bloom. Sbagliato. Zoe, concitata. Ecco, ora vedo. Mignolo corto, marito becchettato dalla moglie. Sbagliato questo? Lisa la nera, grossa gallina che cova dentro un cerchio tracciato col gesso, si alza, stira le ali e chioccia. Lisa la nera. Coco! Cocodè! Cocodè! Si scosta dall'uovo appena fatto e va via dondolandosi. Bloom si indica la mano. Questo rigonfio qui è dovuto a un incidente. Son caduto e mi sono tagliato 22 anni fa. 16 ne avevo. Zoe. Vedo, dice il cieco. Dice qualcosa di nuovo. Steven. Vedi? Muove verso un'unica grande meta. Ne ho 22. 16 anni fa anche lui ne aveva 22. 16 anni fa, 22, caddi. 22 anni fa, lui, a 16, cadde dal cavallo a dondolo. Ha una contrazione dolorosa. Fatto male alla mano, non so dove. Dovrei andare dal dentista. I soldi? Zoe sussurra qualcosa a Florrie. Ridacchiano. Bloom libera la mano e scrive oziosamente sul tavolo, da destra verso sinistra, tracciando lente curve a matita. Florrie. Che cosa? Passa al trotto una carrozza da nolo, numero 324, con una giumenta dalle balde terga, guidata da James Barton, di Harmony Avenue, Donnybrook. Blazes Boylan e Lenian stanno abbandonati sui sedili laterali ondeggianti. Il garzone dell'Ormond è accoccolato dietro sull'asse. Tristemente, al di là della tendina, Lydia Deuce e Mina Kennedy guardano fissamente. Il garzone, ballonzolando, le sbeffeggia facendo marameo con le dita, serpentelli che si dimenano. Cocco, vi prudon le! Bronzo accanto a oro mormorano. Zoe, a Florrie, mormora, mormora di nuovo. Blazes Boylan si china sul vuoto tra un sedile e l'altro, cappello di paglia alla marinara di traverso, un fiore rosso in bocca. Lenian, con berretto da spiaggia e scarpe bianche, leva premurosamente un lungo capello dalla spalla di Blazes Boylan. Lenian, ehi, cosa scorgono i miei occhi? Hai spazzato via qualche ragnatela dalle passerine? Boylan, sazio, sorride. Spennato un tacchino. Lenian, ottima nottata di lavoro. Boylan, alza quattro tozze dita solidungole e strizza l'occhio. Blazes Kate. Merce garantita secondo campione, altrimenti si restituisce l'ammontare. Stende l'indice. Odora un po'. Lenian, odora gioioso. Ah, ragosta e maionese. Ah, Zoe e Florrie ridono insieme. Boylan, Salta giù con sicurezza dalla carrozza e chiama forte perché sentano tutti. Olà, Bloom! Mrs. Bloom è già vestita? Bloom, in giacchetta da lacchè di felpa color susina e calzoni a mezza gamba, calze giallo rosa e parrucca incipriata. Temo di no, signore. Gli ultimi effetti? Boylan gli lancia una moneta da 6 pence. Ecco, per un gin corretto. Appende con disinvoltura il cappello a un ramo della testa cervina di Bloom. Introducimi, ho un affaruccio privato con tua moglie, capito? Bloom. Grazie, signore. Sì, signore. La signora Tweedy è nel bagno, signore. Marion. Dovrebbe sentirsi altamente onorato. Salta fuori dall'acqua, spruzzando di qua e di là. Raoul, caro, vieni ad asciugarmi. Son come Dio m'ha fatta. Solo il mio cappello nuovo e una spugna da carrozziere. Boylan, un allegro scintillio negli occhi. Fantastico. Bella. Cosa? Che c'è? Zoe le mormora qualcosa. Marion, che guardi pure quel portento. Ruffiano, e che si frusti. Scriverò a una potente prostituta o a Bartolomona, la donna barbuta, che gli vescichino tutta la pelle per lo spessore di un pollice e che gli facciano riportare una ricevuta firmata e timbrata. Boylan. Si stringe le braccia attorno al corpo. Forza, non ce la facevo a reggere di più. Si muove a grandi falcate, gambe rigide da cavalleggero. Bella, ridendo. Boylan, a Bloom, di sulla spalla. Puoi pure metter l'occhio al buco della serratura e sollazzarti con te stesso, mentre me la ripasso 3 o 4 volte. Bloom, grazie, signore. Senz'altro, signore. Posso portare 2 amici per fare da testimoni e prendere un'istantanea? Ha in mano un vaso d'unguento. Vaselina, signore? Fiori d'arancio? Acqua tiepida? Kitty, dal sofà. Dici, Flori, dici cosa? Flori le mormora qualcosa. Sussurranti paroline dolci mormorano. Lecca lingueggiando forte. Papasmico, plop, slop. Mina Kennedy, gli occhi volti al cielo. Oh, deve essere. Come l'aroma dei gerani e delle pesche adorabili. Oh, idolatra ogni minima parte di lei. Appiccicati l'uno all'altra, coperti di baci. Lydia Deuce, bocca che si schiude. Yam, yam, oh, gliela fa portandola in giro per la stanza. Trotta, trotta, cavallino. Li potrebbero sentire a Parigi e a New York. Come aver la bocca piena di fragole con la panna. Kitty, ridendo. La voce di Boylan, dolce, rauca, dalla bocca dello stomaco. Ah, Dio blascrobraccia crasht. La voce di Marion, rauca, dolce, le sale in gola. Oh, e sua spacima poesh napauk. Bloom, pupille follemente dilatate, si stringe le braccia al corpo. Leva. Metti, leva, infilzala ancora, spara. Bella, Zoe, Florri, Kitty. Oh, ah, Lynch indica, specchio della natura. Ride. Steven e Bloom guardano fissamente nello specchio. Il volto di William Shakespeare, imberbe, vi appare irrigidito da una paralisi facciale, incoronato dal riflesso dell'attaccapanni a corna di cervo dell'ingresso. Shakespeare, solenne voce di ventriloquo. È l'alto riso a tradirla vacuamente. A Bloom. Tu ritenesti d'essere invisibile, mira! Fa chicchirichì con un riso da cappone nero. Iagogo, come il mio stello sgannò la sua testimona. Iagogogo! Bloom sorride verde alle 3 puttane. E a quando la barzelletta? Zoe, prima d'essere 2 volte sposato e 1 volta vedovo. Bloom. Qualche volta si chiude un occhio. Anche il gran Napoleone, quando gli presero le misure a pelle nuda dopo morto. Mrs. Dignam, vedovella, naso ritto e gote rosse a furia di parlar di morti, di lacrime e di Sherry Taney rosso, arriva di corsa in gramaglie, cappellino sulle 23. Mettendosi il rossetto e la cipria sulle gote, le labbra e il naso, e quale mamma cigno spinge davanti a sé la covata dei piccini. Sotto la gonna le spuntano i pantaloni a tutt'uso del defunto marito e le scarpe dalle punte in su, misura 45. Ha in mano una polizza d'assicurazione della vedova scozzese e un grosso ombrello tenda sotto il quale i piccini le corrono al fianco. Pazzi, saltellando a piè calzato, colletto staccato, una resta di cotolette di maiale a ciondoloni. Freddy, piagnucolando. Susi, con una bocca da baccalà querulo. Alice, che tiene a bada il poppante. Li manda avanti a spintoni, con tutte le sciarpe al vento. Freddy. Ai! Mina, mi trascini come un sacco di patate! Susi. Mamma, il brodo sta andando di fuori! Shakespeare, con una rabbia da paralitico. Sposi il secondo chiacciso prima. Il volto di Martin Cunningham, barbuto, si imprime sui lineamenti del volto imberbe di Shakespeare. L'ombrello tenda oscilla ubriaco, i bambini scappano via. Sotto l'ombrello appare Mrs. Cunningham con un cappello da vedova allegra e un kimono. Sguscia di lato e si inchina, contorcendosi alla giapponese. Mrs. Cunningham canta. Mi chiaman la perla dell'Asia. Martin Cunningham la fissa impassibile. Enorme. Fottutissima maledetta mezza tacca. Steven. Et exaltabuntur cornua justi. Regine son giaciute con tori da primo premio. Ricordatevi di Pasifae, per la cui lussuria il mio bistris nonno fece il primo confessionale. Non dimenticate la signora Grissel Stevens, né i rampolli suini della famiglia Lambert. E Noè si ubriacò di vino e aveva l'arca aperta. Bella. Niente del genere qui. Hai sbagliato bottega. Lynch. Lascialo in pace. È tornato da Parigi. Zoe corre da Steven e lo prende a braccetto. Avanti, avanti. Facci sentire un po' di parlez-vous. Steven si calca il cappello in testa e salta verso il caminetto, dove si ferma con le spalle aggobbite, mani stese a mo' di pinne, un sorriso dipinto in volto. Lynch, stambureggiando sul sofà. Bere ben ben ben bere ben ben ben ben ben ben. Steven barbuglia con scatti da marionetta. Mille luoghi di piacere per spendere vostre serate con belle signore che vendono guanti e altre cose, forse suo cuore, birreria finissima, locale alla moda, posto molto eccentrico, dove sacco di cocotte ben vestite, quasi principesse, come ballano cancan e promenano buffonate parigine extra pazze per scapoli forestieri. Lo stesso se parlano cattivo inglese, come intelligenti sono per cose amore e sensazioni voluttuose. Mister molto shishi, per loro piacere, deve visitare cielo e inferno, spettacolo con candele funebri e loro lacrime e argento che succede ogni sera, burletta o molto shocking delle cose religiose non vedere in tutto il mondo. Tutte donne chic che arrivano piene di modestia, poi si spogliano e strillano forte di vedere l'uomo vampiro violentare monaca molto fresca, giovane, con de sutru blanc. Fa schioccar forte la lingua. Oh là là, supefchila! Lynch. Vive le vampire! Le puttane. Bravo, parlez-vous! Steven, testa all'indietro, ride forte, battendosi le mani, smorfieggiando. Gran successo di l'erità! Angeli, molto piacere, prostitute e santi apostoli, grossi farabutti dannati, demi mondenne carine, assi luccicanti di diamanti e tanto tanto eleganti. Oppure siete voi, forse, amante più di perfezionato piacere moderno, turpitudini di vecchi signori? Fa cenni intorno a sé con gesti grotteschi, cui rispondono Lynch e le prostitute. Caucciù, donna statua reversibile, o grandezza naturale, voyeur, nudità, vergini molto lesbiche, bacio 5-10 volte. Entrare, signori, per vedere in specchi tutte le posizioni, i trapezzi, tutto quel meccanismo là. E poi, se si vuole, azione estremamente bestiale, garzone di macellaio che fornica il fegato di bue caldo, omelette sul ventre, pièce de Shakespeare. Bella, buttandosi le mani sul ventre, si abbatte sul sofà con uno schianto di risate. Un omelette sul... Oh, omelette sul... Steven, leziosamente. Ti amo, sarcaro. Tu parlare lingua inglese per Dublin tanto cordiale. Oh, sì, Mollù. Quanto costare? Waterlogged, water closed. Smette improvvisamente e alza l'indice. Bella, ridendo. Omelette. Le puttane, ridendo. Bis, bis. Steven, a me le orecchie. Ho sognato un cocomero. Zoe. Va all'estero a fare all'amore con una straniera. Lynch, in giro per il mondo in cerca di moglie. Flory, i sogni procedono per contrari. Steven, stende le braccia. Fu qui, strada delle sgualdrine, in Serpentine Avenue. Belzebù me la mostrò, la vedova paffutella. Dove è steso il tappeto rosso? Bloom, accostandosi a Steven, guardi. Steven. No, io volavo. I miei nemici sotto di me. E sempre sarà, nei secoli dei secoli. Grida. Pater! Libero! Bloom. Guardi, le dico. Steven. Vuole fiaccarmi lo spirito, vero? Oh, merda, Lor! Urla con aguzzi artigli d'avvoltoio. Hola! Ehi, hey, ho! La voce di Simon Dedalus squilla in risposta, un tantino sonnacchiosa, ma pronta.